Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. La cosiddetta intermodalità è ormai universalmente considerata uno dei criteri di fondo per una mobilità più efficace e più sostenibile. L'idea è che sfruttando un mix di mezzi di trasporto diversi ma fortemente coordinati tra loro si possa viaggiare più velocemente e in modo più sostenibile. Naturalmente in questa visione proprio i punti di interscambio, laddove cioè si cambia mezzo di trasporto, diventano cruciali, così come il tempo che si impiega per il cambio. Stasera allora andiamo al Vislab, spin-off dell'Università di Parma, che è uno dei centri più avanzati al mondo nel campo della robotica e in particolare dei veicoli autonomi e della visione artificiale. Il Vislab è coinvolto nel progetto europeo V-Charge attraverso appunto l'Università di Parma, progetto che affronta uno dei passaggi più critici e direi anche più odiati in assoluto, il momento del parcheggio. Diamo allora il benvenuto al direttore del Vislab, Alberto Broggi. Buonasera, professor Broggi. Buonasera, buonasera. Allora, insomma, ci dica obiettivo del progetto V-Charge e anche i principali attori. Ma l'obiettivo del progetto è quello di automatizzare il momento del parcheggio. Cioè, quando io arrivo a un parcheggio, scendo dal veicolo nel momento in cui sono di fronte al parcheggio e il veicolo automaticamente va a parcheggiarsi, quindi cerca il parcheggio libero e poi si posiziona, entra nel parcheggio e si ferma. Questo è l'obiettivo principale. E poi, se ad esempio il veicolo fosse elettrico, il veicolo a un certo punto potrebbe anche in qualche modo prenotare la sua ricarica e a un certo punto si muove da solo, va nella posizione di ricarica, si ricarica e poi dopo torna a riparcheggiarsi. Quindi quando il proprietario esce e ritorna a prendere il veicolo, il veicolo è già pronto, già carico e può ripartire direttamente. Anche diciamo la gestione dello spazio all'interno dei parcheggi con una procedura di questo genere potrebbe diventare molto più efficiente, mi spiegava. Sì, assolutamente, infatti si possono fare cose che adesso sono impensabili, ad esempio i veicoli potrebbero essere parcheggiati molto vicini uno all'altro perché ad esempio non c'è più la necessità di dover scendere dal veicolo, quindi di aprire la portiera, potremmo veramente parcheggiarli a qualche centimetro di distanza, oppure addirittura alcuni parcheggi potrebbero essere bloccanti per altri, cioè alcuni veicoli potrebbero essere fermi e non avere la possibilità di muovere. Certo, mi vengono addirittura in mente quei parcheggi che si vedono, non so, a New York, in qualche caso in Giappone, in cui le auto vengono proprio sollevate con una piattaforma per cui messe una sopra l'altra, no? Sì, è esattamente quello, il motivo è proprio quello, cioè i veicoli poi parlano tra di loro e chi è bloccante per un altro si sposta e lascia la strada libera al veicolo interessato per raggiungere l'uscita. Ecco, senta, come funziona questo sistema? È come dire il parcheggio che si infrastruttura e in qualche modo riesce a teleguidare queste auto o sono proprio le auto che se ne vanno in giro da sole? No, l'obiettivo è di lasciare il parcheggio esattamente come è adesso, quindi non avere infrastrutture speciali sul parcheggio, ma avere invece un veicolo intelligente. Quindi sul veicolo sono installati dei sensori che permettono al veicolo di capire com'è la situazione intorno, trovare il veicolo, trovare il parcheggio e magari ad esempio localizzare se ci sono pedoni nelle vicinanze o ci sono altri veicoli che si muovono. Quindi tutta l'intelligenza sta a bordo del veicolo. Voi di cosa vi occupate a questo proposito? Noi ci occupiamo di una parte che è una delle parti più difficili, cioè utilizzando i sensori di bordo, utilizzando le telecamere, cerchiamo di localizzare se ci sono pedoni che si muovono di fronte o di lato al veicolo, oppure cerchiamo anche di localizzare veicoli che si stanno muovendo, quindi tutto l'ambiente dinamico che si muove all'interno. Ecco, perché voi vi occupate specialmente proprio dell'analisi delle immagini riprese dalle telecamere, perché ecco, diciamo, questi veicoli sono intelligenti, hanno a bordo una serie di sensori. I sensori principali in questo progetto sono i sensori sonar, quelli utilizzati tradizionalmente. Quelli che fanno beep quando si parcheggia. Esatto. Questi però sono diciamo, di basso costo, anche di prestazioni abbastanza limitate. Però invece utilizziamo molto le telecamere che sono a bordo veicolo, ne abbiamo sei. Sono sei telecamere che permettono di vedere tutto intorno e addirittura alcune di queste vedono con una visione stereo, quindi doppia telecamera, per ricostruire l'informazione 3D. E noi ci occupiamo appunto di elaborare queste immagini e capire, cioè spiegare al veicolo cosa ha intorno e com'è la strutturazione dell'ambiente intorno. Questo è il primo passo, no? Verso veicoli sempre più autonomi. Effettivamente. effettivamente questo è un ambiente che è abbastanza più semplice dell'esempio dell'ambiente urbano, quindi possiamo muoverci e cerchiamo di automatizzare il veicolo prima in un ambiente semplice e poi ci spostiamo verso un ambiente più difficile che l'ambiente urbano. Ricordiamoci però che non è proprio così semplice il parcheggio, perché tipicamente il parcheggio può essere anche sotterraneo, quindi buio, e ci possono essere pedoni che si muovono tra un veicolo e l'altro. Grazie, grazie professor Broggi. Grazie mille, arrivederci. È tutto, a domani.